La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, non è sabato senza la rosa purpurea, senza il cinema alla radio qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, puntata piena piena di cose, perché film ce ne sono parecchi nuovi nelle sale italiane, ce ne sono anche di quelli di cui si parla e di cui si parlerà per motivi strettamente di botteghino e anche di collegamento con la storia, come nel caso di Ben-Hur, o perché torna un maestro sempre amato come Woody Allen. Si parlerà anche molto di giochi con noi, giocheremo ancora una volta insieme con il nostro DVD Game, con anche i biglietti per un altro grande spettacolo che sta per arrivare in Italia, agli Arcimboldi di Milano. Bollywood sbarca veramente con uno spettacolo da Bollywood e noi chiaramente ci saremo. Insomma, segnatevi il nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea @radio24.it. Segnatevi anche il nostro numero di SMS 349-238-6666, perché vi serviranno durante questa puntata. Partiamo subito, dicevamo, dalla storia. Ben-Hur, qualcuno si è permesso di fare un remake di questo film che nel 59 vinse qualcosa come 11 Oscar. Del resto, se c'è una tipologia di film che oggi possono essere, come dire, rifatti, è proprio quella che nella spettacolarità, nell'utilizzo delle tecnologie, nella regia adrenalinica potrebbe trovare proprio quasi un fil rouge, un punto di contatto con quel film di allora, utilizzando le tecnologie di oggi. E questo è proprio Ben-Hur. Da quanto sei schiavo? 5 anni. Qual è il tuo nome? Ben-Hur. La mia famiglia era una delle più rispettate di Gerusalemme. Poi siamo stati traditi. Dal mio stesso fratello. Messala! Lo sai che non abbiamo colpa? Roma vuole il sangue. Crocifiggetelo! No! Il mondo in cui vivi è di Roma. Sue le leggi, suo il potere. Non lascerò Messala impunito per quello che ci ha fatto. Un modo c'è. Nell'arena non ci sono leggi. Se tuo fratello è l'orgoglio di Roma, sconfiggilo e avrai sconfitto un impero. E allora, dicevamo, il rischio in questo caso non stava certo nella violazione di una sacralità autorale, come è capitato in passato con altri remake. In questo caso sicuramente il genere era colossal, spettacolare, peplum allora e lo è anche adesso. Chiaramente però si affrontano, ormai immagini iconiche della nostra storia cinematografica. Allora noi chiamiamo in causa Boris Sollazzo per sentire un po' come è andata questa operazione remake di Ben-Hur. Dicevo, Boris, intanto ti saluto, si rischiava forse meno che in altri casi. Rischio ripagato per lo spettatore o no? Si rischiava anche meno, ma temo si sia rischiato tutto allo stesso tempo, nel senso che alla fine c'era talmente poco da cambiare che sbagliarlo era ancora più facile, probabilmente, soprattutto se c'è una mente autonoma e anche ambiziosa come quella di Timur Bekmambetov, che ha una storia cinematografica meravigliosa, dalla saga dei Guerrieri della Luce alla collaborazione con Roger Corman, che di fatto lo ha scoperto. E il problema è che Bekmambetov, che è un amante del peplum e dell'action, e forse Ben-Hur, al di là del capolavoro che è in sé, dato anche riconosciuto dalla dozzina di Oscar vinti, era anche un cardine, ed è anche un cardine di quei due generi. E lo si capisce immediatamente che Bekmambetov ha un problema con l'originale, perché lui fa iniziare tutto in medias res, fa iniziare dalla famosa corsa di bighe che ancora alimenta i nostri incubi, per poi andare a ritroso attraverso un flashback. E il problema sta tutto nel fatto che mentre il grande film di William Wyler era un film spettacolare, un colossal propriamente detto, l'esempio del peplum come lo abbiamo visto essere il trionfo di un certo cinema hollywoodiano, era però il film di Wyler anche un film estremamente denso nei contenuti, con un afflato religioso molto forte che forse adesso risulta antiquato, ma sicuramente con una sceneggiatura molto forte. E qui invece Bekmambetov fa quello che sa fare meglio, cioè l'action puro, in un mondo però che nel frattempo ha visto declinare Ben-Hur in tanti altri modi. Penso per esempio alla corsa dell'Overcraft di Guerre Stellari, per dirne una, che lo richiama molto in maniera molto molto potente. E quindi l'immaginario è stato riempito da ciò che aveva ereditato da Ben-Hur, e Bekmambetov, nel ricopiarlo, nel cercare di stare al suo passo, inevitabilmente viene arrotato dalla biga, volendo fare una metafora relativa al film. E quindi anche quel contenuto che cerca di essere post-capitalistico, estremamente modernizzato, non riesce a tenere testa invece alla qualità visiva. Devo dire, la scena delle bighe fatta da Bekmambetov è straordinaria, questo va detto, e l'impressione è però che gli abbia risucchiato l'anima del film, nel senso che nel cercare l'icona, nel cercare di rifare bene quella scena, che è effettivamente quella che rimarrà per sempre nei nostri occhi, si è dimenticato il resto del film, che invece è diventato una cozzaglia piuttosto rumorosa e anche vuota di rumori, di scene d'azione molto spettacolari, di remi mossi a tempo di tamburo, ma poco altro. Insomma, c'è tanto fracassonismo e poco del colosso all'hollywoodiano che ricordavamo. Insomma, rimandato decisamente, se non addirittura bocciato, il nuovo Ben-Hur. Però concordo con te, Boris, sulla scena della biga, che è veramente girata molto bene. Lì si vedono tutti i mezzi di oggi a disposizione di un momento scenico e cinematografico di quel tipo. Traffico adesso, torniamo insieme fra poco per parlare di quello che a mio modo di vedere è decisamente il film italiano più interessante di questa settimana. Stiamo parlando di Indivisibili. JP Morgan Asset Management vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la seconda parte del nostro programma. Come dicevamo poco fa, è il momento di parlare di un film italiano che per noi è sicuramente la proposta italiana più interessante di questo fine settimana. Una storia di un rapporto fra sorelle, direi proprio inscindibile, visto e considerato anche il titolo del film, che è Indivisibili, regia di Edoardo De Angelis, che fra poco ascolteremo, con Marianna e Angela Fontana, che sono le due protagoniste, appunto nei panni di due sorelle, Viola e Daisy, gemelle siamesi, attaccate dalle parti dell'anca, per intenderci. Quindi non, anche questa è una cosa importante, non un tipo di particolarità che ne pregiudichi la vita, ne metta in pericolo chissà che cosa, no, ne pregiudica proprio il fatto di dover stare sempre insieme, appunto Indivisibili. Sono due cantanti, siamo in Campania, le esibizioni si snodano fra matrimoni, serenate, insomma, su ritmi più o meno neomelodici, con i loro proventi, anche col fatto di essere due belle ragazze in questa particolare condizione, diventano fenomeni attrattivi e quindi, come dire, danno soldi a questa strampalata famiglia. Tutto fila come deve filare, forse nell'unico modo in cui potrebbe filare, fino a quando non scoprono, perché un medico glielo dice, che possono dividersi. E lì chiaramente il mondo cambia completamente. È una truffa, è così chiara, solo voi non l'avete capito. Ma quella truffa, scusa. Il dottor Fasano non sapeva niente per l'operazione. Si mai a Svizzera. Non li mava un viaggio. L'anestesia. Ah, solo operatori. Tu sti cose ne papà. E appunto non è che te pensi. Che noi gli ha mai rubato 20.000 euro. Ma che te credi che sono scema, eh? Noi l'anno scorso siamo guadagnati 80.000 euro. Ma che stai dice? Ma che dice questo? Mi ha fatturato se no 5.000 euro. Abbiamo fatto tutto cosa nel noi, eh? Edoardo De Angelis al microfono, al telefono, anzi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Edoardo. Ciao, ben trovati ragazzi. Allora, siamo contenti di averti qui e siamo contenti di questo film, perché è un film molto molto particolare nel nostro panorama, e partirei proprio da questa casualità, da questa particolarità che tu hai scelto, quella di raccontare due sorelle, due gemelle siamesi, perché quello che mi è venuto in mente, Edoardo, guardando il film, è che tutto sommato c'è dentro anche un po' di tutti noi, cioè siamo tutti un po' siamesi, nel senso che il binario su cui è tracciata la nostra vita, a volte più largo di così, ovviamente di solito più largo di così, però c'è un po' per tutti, c'è un'universalità di questo film. Senz'altro, abbiamo tutti noi un legame siamese con qualcuno o con qualcosa che riguarda noi stessi. rescindere quel legame a volte si rende necessario per poter crescere, però questa scissione comporta dolore ed è questo il territorio d'indagine di questo film. Non credo che sia difficile da, guardando questo film, sentire questo livello di immedesimazione. Questa è la, proprio la scommessa di questo racconto. Le due siamesi sono un'immagine simbolica che ci aiuta a raccontare quanto a volte attraverso la rappresentazione fisica a dettaglio questa separazione possa comportare un dolore. E questa universalità, secondo me, Edoardo, riguarda anche la famiglia delle ragazze, perché comunque è la solita storia, cioè fino a quando tutto è sotto controllo, i genitori ovviamente, come dire, tendono a stare tranquilli, quando però qualcuno fra i figli, come dire, tira fuori delle istanze, delle volontà, delle esigenze, fino a quel momento non considerate, il muro comincia a mostrare tutte le sue crepe. Sì, senz'altro. Infatti è una forma di sfruttamamento quella che si perpetra, anche una forma di controllo. La famiglia è nido ma è anche gabbia, quindi tutto ciò che sta fuori dalla gabbia non è accettato, viene visto come nemico. Eppure questi genitori non sono totalmente privi di amore nei confronti di queste ragazze, nutrono nei loro confronti un amore malato, c'è una dimensione perversa dell'esercizio dell'amore, perché non permette lo sviluppo dell'identità, ma comunque anche quello è amore. E sicuramente non nascondono proprio la potenzialità di libertà nella loro nuova vita che potrebbe avere questo intervento costoso ma anche abbastanza banale. Ti chiedo invece come hai scelto le ragazze, perché sono due attrici nate, cioè Marianna e Angela mostrano una capacità di tenere la macchina da presa e di tenersi sulle spalle gran parte del film davvero sorprendente. È vero, io ho puntato su di loro subito perché già dal primo provino era evidente quanto fossero aderenti al racconto e alla parte. Gli ho permesso di esprimersi nella loro lingua ancestrale, quella che hanno imparato a casa, il dialetto di Casapesenna, che è l'unico modo per poter esprimere i sentimenti più profondi e anche quelli più immediati. E dopo un lungo lavoro si è ottenuto, secondo me, un grande risultato, perché loro non solo hanno mostrato un talento spontaneo, genuino, hanno anche mostrato di saper imparare molto velocemente il mestiere del cinema. Quindi mi hanno sorpreso su tutti i fronti e ho ricevuto da queste ragazze un grande insegnamento, che è un insegnamento soprattutto di rigore etico, perché sono state capaci di impegnarsi nel lavoro con un'estrema correttezza. Ecco, a proposito di rigore, Edoardo, ce n'è tanto anche estetico da parte tua. Tu dai al film un'impronta molto definita, colori molto lividi, audio naturale, con un slang napoletano che a volte necessita proprio di traduzione. Non so se uscirà coi sottotitoli in quei momenti il film, però sicuramente è un, come dire, hai scelto la chiave del realismo, dell'iperrealismo in certi momenti, ma non esteticamente. Esteticamente invece fai un salto, recepisci quello che si è visto anche negli ultimi anni nella corrente napoletana del nostro cinema, con una tua, però un tuo punto di vista che, a mio modo di vedere, è quello che poi fa un po' la differenza in questo film. Allora ti chiedo come hai lavorato proprio all'immaginario di questo film. Il punto di riferimento e il punto di partenza in termini di ispirazione è l'ambiente, in particolare Castelvolturno e gli esseri umani che lo popolano. Poi dal punto di vista del linguaggio cinematografico invece si è ragionati cercando di impostare la messa in scena in maniera realista, ma con delle implicazioni e delle incursioni e trascendenze. Per dare un senso di immediatezza c'è bisogno di un lavoro meticoloso. È da Perez in poi che sviluppiamo un nostro linguaggio cinematografico con dei nostri mezzi, delle riprese che sviluppiamo di volta in volta, facendo delle particolari. C'è un modo di riprendere attraverso uno stabilizzatore che ci permette di realizzare delle lunghe sequenze per ogni scena senza mai spezzettarle, e giriamo poi secondo la sequenza della sceneggiatura, utilizzando in questo film il ritmo delle botti che detta il ritmo interno alle scene e il tempo generale del film. Nel senso che prima di girare abbiamo sempre propagato attraverso delle casse le bozze e i bottari di Portico, che poi sono presenti anche nella colonna sonora. Poco prima di cominciare le riprese toglievamo la musica, ma questa musica, questo ritmo restava nel cervello degli attori e quindi è una dimensione di ritmo non udibile ma presente nelle scene come traccia visiva. E allora, grazie Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili nei cinema italiani, un film che La Rosa Purpurea consiglia. A risentirci, Edoardo. Grazie ragazzi, a questo. E allora, abbiamo parlato di Indivisibili, adesso invece giochiamo insieme con il nostro DVD Game, come sempre due tracce misteriose di un film che dovete indovinare per provare a vincerne l'edizione in Blu-ray. Ascoltiamo. Hai già un'idea di cosa farei di questo posto una volta tuo? Guardiano, ho rinunciato al mio voto! Non volevo venire! Lo giuro, guardiano! Li ho esortati a trovarvi, gliel'ho detto! Dovete essere voi a spiegare! E allora c'è un guardiano evidentemente, quindi ci sarà qualcuno che ha guardato. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci alla Rosa Purpurea @radio24.it il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. E le musiche che sentite sono quelle di uno spettacolo che sta per arrivare in Italia, a Milano, dal 4 al 9 ottobre, Beyond Bollywood, An Indian Story. È uno spettacolo straordinario che arriva dall'India, arriva proprio da Bollywood, e quindi quando vi imbattete nella parola Bollywood, ecco, pensate a una cosa così, sia che sia cinema, sia che sia teatro. Questo spettacolo, 700 costumi, 20 danzatori, 5 attori, ha avuto ben 60 repliche a Londra, 50.000 spettatori al London Palladium e arriva in Italia dal 4 al 9 ottobre, dicevo. E allora due coppie di nostri ascoltatori potranno intervenire alla prima del 4 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano, semplicemente mandandoci il loro nome e Bollywood in un SMS che possono scrivere da questo momento al 349-238-6666. Ripeto, 349-238-6666, scriveteci il vostro nome e Bollywood. Dei primi due nostri ascoltatori verranno poi contattati dalla nostra segreteria per la prima di Beyond Bollywood agli Arcimboldi di Milano il 4 ottobre. E adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme per parlare di Woody Allen, Café Society, e di Al posto tuo con noi, Luca Argentelli. La Rosa Purpurea. Proseguiamo qui la Rosa Purpurea con i film della settimana. Fra poco parliamo di Café Society, il ritorno di Woody Allen. Fatemi dire, un grande ritorno ancora, perché Woody Allen negli ultimi anni ci ha un po' portato sulle montagne russe. Una volta picchi di divertimento, di godibilità, di scrittura, di battute, poi un'altra volta magari qualcosa che inciampava un pochino. Questa volta siamo nei picchi, quindi siamo contenti. Ma ne parliamo fra poco con Boris Sollazzo, che ritroviamo invece prima per affrontare un altro titolo italiano, una... esperimento abbastanza ambizioso, quello di fare una sorta di buddy movie all'italiana. Stiamo parlando di Al posto tuo di Max Croci. Cambiarci la vita per una settimana, durante la quale dovremmo ideare questa linea di sanitari da presentare poi a questo grande distributore giapponese. Questa pazza furiosa se ne esce con questa storia assurda dello scambio di vite e sai che fa quel leccaculo di Molteni? Una proposta fantastica da una donna fantastica. E quindi? E quindi accetto subito, senza pensarci. È che Molteni crede a tutto. Dici una cosa, lui non ce l'accetta. Allora, il clima, avete sentito, è assolutamente quello di commedia, e il plot è quello veramente classico dello scambio di vite. Quante volte il cinema, no, ha messo una persona nei panni di un'altra, addirittura a volte l'ha fatta diventare del sesso di un'altra, addirittura l'ha trasportata dentro un animale, insomma il provare a guardare il mondo con altri occhi poi alla fine, ed è quello che succede a Luca Molteni, un uomo di successo, single, tante donne attorno a lui. Il suo contraltare è Rocco Fontana, invece sposato, 3 figli, precisino, insomma due caratteri completamente diversi. Tutti e due fanno un mestiere che è quello del rappresentante di un'azienda di sanitari, sostanzialmente di water. Queste aziende si stanno sfidando per capire chi vincerà. L'azienda dice: scambiatevi le vite, vediamo quanto sapete stare nei panni degli altri. Boris, Luca Argentero intanto lo ascoltiamo fra poco, protagonista principale insieme ad Ambrangiolini di questa commedia. Dicevo, Boris, buddy movie all'italiana, anche qui una scommessa. Risultato? Anche qui temo che la scommessa sia sostanzialmente persa, ed è un peccato perché la puntata era ottima, mettere insieme due attori interessantissimi come Fresi e Argentero, che hanno due talenti diversi ma molto forti, anche la capacità di avere il coraggio di scommettere contro gli stereotipi che gli si lanciano addosso e che sono chiaramente dettati dalla loro fisicità, no? Bellissimo Argentero, più insomma pacioccoso il buon Fresi, ma capaci di avere uno spettro molto diverso. Lo si è visto con Fresi nell'ambito della sua carriera, si pensi solo al suo personaggio in Romanzo criminale, lo si è visto con Argentero, che insomma potrebbe fare tranquillamente l'eroe delle commedie sentimentali e invece cerca spesso il genere e la risata mettendosi alla prova in diverse situazioni. E Croce è un regista interessante, un regista con un'idea visiva non banale e che cerca di andare lì dove di solito facciamo andare gli americani. Sembrava insomma tutto perfetto per poter portare a casa un buon prodotto. Il problema è che secondo me non si perde un po' il fuoco, non trovi mai la forza del carisma né degli attori né della sceneggiatura, tanto che è un film in cui inevitabilmente la situazione e la complicità dovrebbe portare anche a momenti di grandi risate o momenti di grande commedia, e invece il massimo che si strappa è un sorriso, ma soprattutto la storia non decolla mai perché poi non viene innestata di valori forti, di contenuti forti. Penso anche solo potrebbe essere il contrasto sociale, c'è di fatto solo la diversa inclinazione tra il playboy e l'uomo di famiglia, davvero troppo poco in un'Italia che invece sia nell'ambito del lavoro sia nell'ambito di familiare ormai ha assunto tante diverse connotazioni che potevano essere sfruttate. Ecco, se posso dire, al posto tuo mi è sembrato un film un po' pigro, in cui tutti dovevano dare qualcosa in più e potevano farlo per portare a casa un gran bel film, e tutti invece hanno cercato di portare a casa il massimo risultato nel minimo sforzo, evidentemente secondo me non riuscendoci, soprattutto per un limite di sceneggiatura abbastanza forte. E allora, questo è a posto tuo, dicevamo, una dichiarazione proprio da parte del protagonista, Luca Argentero. Film basato su una coppia improbabile. Il buddy è l'amico, no? Il compagno di avventure o disavventure. In questo caso io e Stefano Fresi diventiamo compagni di disavventure nostro malgrado, non perché scegliamo di avere a che fare l'uno con l'altro, ma perché per salvare il nostro posto di lavoro ci viene chiesto di scambiarci la vita per una settimana. Quindi diventa un buddy movie non per nostra volontà. Ecco, tra l'altro buddy movie che ha dei precedenti assolutamente importantissimi, da Una poltrona per due, insomma, i film di quei personaggi della commedia così importanti. Tu hai qualche riferimento di quel genere cinematografico in mente? L'hai citato, il primo riferimento più immediato era Una poltrona per due, ma per affinità di plot. I buddy movie che mi divertono sono... da spettatore erano stati più quelli polizieschi, Bad Boys o Rush Hour, poliziotto buono, poliziotto cattivo, o poliziotto cialtrone, poliziotto serio. Quelli mi divertivano molto. Ecco, sul set con Stefano Fresi, con Ambrangiolini, mi dici insomma com'è andata? Stefano è stato il motivo per cui ho anche deciso di imbarcarmi in questa avventura, perché una stima umana, soprattutto professionale, nei suoi confronti. Ci siamo conosciuti ai tempi di Noi e la Giulia e pensavo che, se per definizione metaforica vestire i panni di qualcun altro, no? Noi ci scambiamo, se i panni fossero stati quelli di Stefano, l'appeal comico sarebbe stato ancora più efficace, no? È bizzarro immaginarci uno nei panni dell'altro. E Ambra la rincontro invece dopo quasi 10 anni. Noi siamo conosciuti sul set di Saturno Conto di Oxtepe, che è stato un film che ci ha segnato profondamente il nostro percorso. Forse facciamo questo mestiere grazie a quel film, e quindi è stato bello rincontrarsi e scoprire che siamo più o meno rimasti gli stessi ragazzi 10 anni fa. E allora Luca Argentero alla Rosa Purpurea per Al Posto Tuo, fra poco Woody Allen con Café Society. Adesso giochiamo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Ci condurrai da loro? No. Ci condurrai da loro? O finirai come il tuo amico nella gabbia? Credi di farmi paura? Gli orchetti fanno molta più paura di te. Non vogliamo farti paura. Allora, il film, se l'avete indovinato, vi permette di vincere il Blu-ray proprio di questa pellicola. L'indirizzo di posta elettronica per giocare, la rosa purpurea, @radio24.it. Titolo del film, vostro indirizzo. Fra poco sveremo il film, i vincitori, la prossima settimana. Siamo a Woody Allen, siamo a Café Society, una commedia ancora una volta ambientata in quegli anni 30 che sembrano tanto piacere al grande regista newyorkese. Benvenuto a Hollywood. Ciao bello, ti sei già annoiato? Beh, mezzo annoiato e mezzo affascinato. Mio fratello Ben ha un nightclub, mi ha chiesto di aiutarlo. Quando lo saprai? Vediamo se il proprietario lo cede, noi cerchiamo di persuaderlo. Se chiedi con gentilezza, la gente ti ascolta. Ci sono più belle ragazze a Hollywood o a New York? Perché? È così che decidi dove vuoi vivere? Sei bellissima. Mi vedo con qualcuno. L'amore non ricambiato uccide più gente in un anno della tubercolosi. Non mi vuoi almeno provare? Sono così solo che ero pronto anche soltanto a chiacchierare, ma ora sono troppo stanco per farlo. E allora, siamo negli anni 30, la storia di un ragazzino che parte dal Bronx, arriva nella Los Angeles della Golden Age del cinema per lavorare dallo zio, o almeno per essere sostenuto per qualche giorno da questo zio che è un agente del mercato del cinema. Arriva lì, si innamora della donna sbagliata. Non andiamo troppo oltre nel racconto della trama, ma si innamora davvero della donna sbagliata, o comunque della donna giusta, che però deve condividere. Seconda parte del film, il ritorno a New York, le vite, gli amori si intrecciano e a volte fanno anche i nodi. Questi nodi prima o poi vengono al pettine e vengono soprattutto a galla nei momenti in cui magari non te l'aspetti più e in cui non sei preparato ad affrontarli. Commedia sentimentale pura, proprio alla Woody Allen, con le stigmate delle battute, dell'ironia graffiante, soprattutto sul volto e sul personaggio di Jesse Eisenberg, che è sicuramente il personaggio in cui vediamo Woody Allen, che da tanti film ormai non recita più in prima persona, ma che possiamo riconoscere di volta in volta in qualcuno dei suoi personaggi. Incantevole Kristen Stewart al suo fianco, e veramente divertente Steve Carell in un cast che poi ha dentro anche altri nomi piuttosto interessanti. Boris, abbiamo visto un Woody Allen, dicevo, che ci ha riportato in alto, soprattutto con la scrittura di questo film, che ho trovato leggera e profonda al tempo stesso. Pienamente d'accordo, Franco, è la consolazione di questa settimana, nel senso che andando a cercare nelle tante uscite spesso si trovano delusioni rispetto alle aspettative. Le aspettative su Woody Allen si erano abbassate negli ultimi anni, anche se poi aveva regalato qualche buon film. Invece con Café Society siamo di fronte a un Allen finalmente diverso, perché chiaramente nessuno si deve aspettare un ritorno alle origini, ormai quel Woody Allen è anche giustamente morto, ci ritroviamo di fronte a un Woody Allen finalmente di nuovo concentrato sul cinema, sulla bellezza, sull'estetica, sulla voglia di raccontare una storia potente e allo stesso tempo semplice, quelle che gli piacciono a lui, e gli riesce, devo dire, perché Café Society è un film all'antica, un film che forse se l'avesse fatto qualcun altro non gli avremmo creduto così tanto, ma che è disegnato dalla penna leggera e guardato dagli occhi arguti di Woody Allen diventa qualcos'altro. È una storia d'amore, molto particolare, è una storia d'amore di chi non crede nei sentimenti facili, nei sentimenti dritti, quelli che magari vanno a finire con il matrimonio, vanno a finire con dei bambini, ma quei sentimenti che agiscono nonostante tutto e nonostante tutti. La fortuna di Woody Allen è affidarsi, come faceva alle origini, e questo sì, è vero, c'è qualcosa di simile al primo Woody Woody Allen affidarsi a tanti grandi collaboratori, partendo dagli attori, come dici tu, un incantevole Kristen Stewart e secondo me il solito straordinario Jesse Eisenberg, che è forse della sua generazione il migliore, perché con questo Caffè Society dimostra la grande potenza e la grande varietà recitativa che ha nel suo carniere, perché questo era chiaramente un personaggio fuori dalle sue corde, non frenetico né carismatico e allo stesso tempo nerd come eravamo abituati, ma è qualcosa di profondamente diverso e sono bravissimi anche tutti i personaggi di contorno. C'è una sceneggiatura finalmente meno sciatta degli ultimi Woody Allen, che si affida molto meno anche ai vizi e ai vezzi di Woody Allen, qui troverete molta meno ironia sagace di quella che vi aspettate, ma non sarà una delusione, perché risponde a quello che deve essere il film. E poi lasciatemi dire, c'è uno straordinario Vittorio Storaro restituito al cinema con un lavoro di fotografia da far accapponare la pelle. Riesce veramente a realizzare l'immaginario di Woody Allen e a riportarci in un mondo che sarebbe difficile vivere in maniera credibile se non ci fosse quel lavoro straordinario da parte del maestro italiano, che sembra trovare veramente un matrimonio felicissimo con Woody Allen, e immagino e spero che questo prosegua, perché regia e fotografia sono indissolubili in questo film. Quindi non andate a vedere Woody Allen pensando di vedere il solito Woody Allen, che non sia quello in declino degli ultimi anni né quello brillantissimo e geniale dei primi anni, ma andate a vedere questo nuovo Woody Allen godendovi un gran bel film come si facevano una volta, e non è una considerazione negativa, anzi. Quindi complimenti davvero a tutti, perché è un puzzle con tutti i tasselli al posto giusto. E allora Caffè Society di Woody Allen nei cinema italiani. Noi fra poco torniamo con il Trailers Film Festival a Milano. Tanti biglietti per voi per raggiungerci in questa kermesse che non finisce mai, proprio tutta sui trailer. Fra poco, dopo la... Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea in tour, potremmo dire, perché mentre questo fine settimana, per gli amici che ci stanno sentendo e vogliono venirci a trovare, siamo ancora nella serata di oggi in quel di Salso Maggiore per Mangia Cinema, il festival del cinema goloso e del cibo d'autore. Settimana prossima invece torniamo a giocare in casa qui a Milano, dove sbarca il Trailers Festival, Trailers Film Festival, 14esima edizione, ma per la prima volta a Milano. È arrivato dalla splendida Catania, è atterrato nel pianeta dei festival milanesi. Ne parliamo con Stefania Bianchi, che lo dirige. Ciao Stefania. Ciao, buonasera a tutti. Un festival dedicato ai trailer. Insomma, quanto ci fanno innamorare dei film i trailer, quanto sono davvero il veicolo che ci porta poi a scegliere un film, quanto sono importanti per la distribuzione e per la cinematografia. Questo il Trailers Film Festival lo ha capito tanto tempo fa. Adesso è un momento, un passaggio quasi epocale questo per voi, Stefania, arrivare a Milano al Teatro Dal Verme, una grandissima piazza, un grande teatro, per mostrare una sorta di orgia di trailer, potremmo chiamarla, no? Sì, diciamo così, per noi siamo molto entusiasti, insomma, essere giunti a Milano, portare insomma per la prima volta Trailer Film Fest dopo 13 edizioni a Catania. Trailer Film Fest è un festival unico, e c'è solo questo in Europa, che si occupa appunto, come dicevi, di trailer, di promozione cinematografica, e naturalmente per tutti gli appassionati ci saranno bellissimi incontri, ma soprattutto tantissimi e bellissimi trailer da vedere. Ecco perché, Stefania, i trailer sono una sorta di mini film che deve avere un linguaggio suo, deve avere una dinamica e un ritmo suo, no? Certo, hanno un linguaggio tutto loro. Noi li definiamo delle opere artistiche, perché sono anche delle opere artistiche, e naturalmente la principale funzione è quella di fare innamorare lo spettatore e di portarlo al cinema. Quindi in quei pochi secondi, minuti, devono appunto darti tutto il senso del film e portare lo spettatore nelle sale. Tanti allora gli eventi legati al Trailers Film Fest, Stefania, a partire dal 5 ottobre, quando ci sarà la possibilità per tutti, ma anche per i nostri ascoltatori, di incontrare i traileristi, cioè di incontrare quelli che di mestiere fanno i trailer. Magari a qualcuno viene anche l'idea di abbracciare questa professione. Sì, soprattutto, ma anche perché non ci può essere trailer film fest senza la figura del trailer maker, che noi chiamiamo trailer maker, ma trailerista va benissimo. E porteremo a Milano due grandi trailer maker, Miro Grisanti ed Edoardo Massieri. Sarà un incontro molto bello, presenteremo i loro trailer. Miro Grisanti ha realizzato più di 1000 trailer, raccontando con i suoi trailer la storia del cinema italiano, e Porcile, e Ginger e Fred, La voce della luna, insomma è uno che veramente ci ha raccontato il cinema, il grande cinema, con i trailer. Ed Edoardo Massieri è il trailer maker di Ultima Generazione, e che naturalmente anche al Trailer Film Fest ha vinto moltissimi premi e realizza insomma i trailer per le grandi case di distribuzione cinematografiche. Invece l'8 ottobre, l'ultima sera, Stefania, c'è un altro incontro interessante, quello con gli influencer. Chi sono gli influencer e cosa c'entrano con i trailer? Gli influencer, oggi capita molto spesso di sentir parlare di influencer, quindi al Trailer Film Fest vogliamo proprio capire insieme ai grandi, ai rappresentanti delle grandi case di distribuzione cinematografica. Ci sarà 20th Century Fox, Fox Searchlight, BIM e Filmauro. Insieme a loro vogliamo capire proprio chi sono gli influencer, che cosa fanno, anche perché qualcuno li ha definiti anche dei cialtroni di dimensioni cosmiche, altri dei giovani che comunque riescono a smuovere le masse. E siccome ultimamente il cinema li sta utilizzando molto, vogliamo capire proprio chi sono e che cosa fanno. E allora, questi gli incontri principali, però noi vogliamo come sempre coinvolgere il nostro pubblico. Allora, tutti gli incontri, tutte le proiezioni, perché ci saranno anche 30 prime al Del Verme, sono gratuite, quindi non c'è il problema di comprare il biglietto, però gli ascoltatori della Rosa Purpurea saranno trattati meglio. E allora, da questo momento, i primi 5 ascoltatori che ci scriveranno al 349-238-6666 con la parola trailers, così capiamo di cosa state parlando, potranno scegliere se andare all'anteprima del 6 di ottobre con Deepwater, Inferno sull'Oceano, o all'anteprima di Mike and Dave l'8 ottobre, serata finale della sera, appunto del festival, nel quale incontreremo anche tutto lo staff della Rosa Purpurea, perché noi saremo lì per la premiazione. Quindi 349-238-6666, venite a vedere i film, le anteprime, Deepwater il 6 ottobre e Mike and Dave l'8 ottobre. Ci sarà per voi un posto riservato e anche delle bellissime sorprese. Stefania, grazie per essere stata con noi, ci vediamo al festival del Teatro Dal Verme. E grazie a voi che siete anche media partner di Trailer Film Fest, e naturalmente ci vediamo al Trailer Film Fest. E allora, questo è l'originalissimo Trailers Film Fest, un momento particolare per riflettere su una piccola grande ingranaggio, diciamo così, della macchina del cinema. Noi siamo arrivati al momento dei film da vedere in casa, a partire dal nostro game della scorsa settimana. Perciò io potrei anche entrare in tribunale adesso e prendermi quei documenti. No, non può farlo, perché quei documenti lì non ci sono. Ma ha detto che sono pubblici. So che l'ho detto, ma questa è Boston e la Chiesa non vuole che i documenti si trovino, quindi lì non ci sono. Avete partecipato in molti, avete indovinato in molti, il film era Il Caso Spotlight, sicuramente, come dire, il film simbolo un po' anche di questa edizione degli Oscar. Vincitori: Giulia Bona di Voghera, provincia di Pavia, Vera Pacati di Bergamo, tutte e due in Lombardia, tutte e due nostre ascoltatrici, per ricevere il Blu-ray del Caso Spotlight, del quale parliamo con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo del primo Oscar come miglior film e miglior sceneggiatura originale, un film che racconta di come Spotlight, la sezione giornalistico-investigativa del Boston Globe, scoprì il sistema preciso di copertura da parte della Chiesa per quanto riguarda una lunghissima serie di abusi su minori. Un film secco, pulito, pieno di quel rigore, ma anche di quel vigore etico che appartiene a un mondo e anche a un cinema di altri tempi. Blu-ray ottimo, ricchissimo soprattutto di approfondimenti sulla vera inchiesta e interviste ai protagonisti. Giulio, diamo un'occhiata anche ai palinsesti televisivi della prossima settimana, a partire da domenica 2 ottobre alle 23:30 su Rai Movie, La parte degli angeli di Ken Loach. Siamo a Glasgow, ci sono un gruppo di uomini costretti ai lavori sociali, un padre che vuole conquistare la fiducia nel suo ruolo e garantire un futuro alla sua famiglia, e un whisky pregiatissimo che forse, come novelli Robin Hood, sarebbe il caso di rubare. Non è un quadro drammatico questa volta per Ken Loach, ma una commedia alcolica, un film di rapina veramente sui generis, su un'umanità che, mi piace ricordare quello che ha scritto un mio collega su Film TV, non abbassa la testa ma al limite alza il kilt. Il giorno dopo, quanto mai tempestiva, la Rai programma alle 21.35 su Rai 3, lunedì 3 ottobre, Fuoco a Mare, fresco di nomina per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar. Sì, in prima visione TV il film candidato per l'Italia alla corsa agli Oscar, per inserirmi nel dibattito credo che abbia anche molte chance di vittoria. Siamo a Lampedusa e Gianfranco Rosi, il regista, mette in dialogo la tragedia dei migranti, riprese con immagini anche estreme e eticamente opinabili, e la vita quotidiana dei lampedusani, soprattutto quella di un bimbo affetto da un problema che si fa subito metafora, l'occhio pigro. Sicuramente è uno dei film italiani più importanti dell'anno, capace di portare alla ribalta internazionale una delle cose che sappiamo fare meglio in Italia oggi, ovvero il cinema del reale, ma è anche un film problematico che pone questioni etiche sulla rappresentazione del dolore. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo arrivati alla fine del nostro programma, non ci resta che il tempo per salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana, il sabato, sempre qui alla Rosa Purpurea alle 18 su Radio 24, tutto il cinema che c'è.